1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo alle 7:18 minuti, siamo qui coi giornali davanti, siamo pronti a leggerli e vi ricordo che oggi parleremo un po' di politica, parleremo dell'apertura, se c'è, di Beppe Grillo ieri nell'intervista al Corriere della Sera al PD. Avremo ospite l'onorevole Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, avremo con lei Claudio Velardi e poi parleremo anche un po' di Lega, sono giorni decisivi, l'ho detto. Avremo il sindaco di Padova, Bitonci, anche uno dei leader della Lega in Veneto, per capire che succede, come si muove. Oggi, questa sera proprio, Tosi dovrebbe, secondo indiscrezione dei giornali, certificare la rottura con la Lega di Salvini. Staremo a vedere. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 5 marzo, oggi è il classico giorno in cui ogni quotidiano ha una propria apertura perché non c'è un tema dominante. Il Sole 24 Ore, cambi e tassi, effetto quantitative easing, l'euro ai minimi da 11 anni. Per il Corriere invece Renzi apre a Grillo sulla RAI. Repubblica, giustizia, altro stop sulla corruzione, la Lega si spacca, dunque l'attualità politica. Mentre il Messaggero ha questo allarme dei CAF, errori nei 7:30, rischio caos. Per la Stampa, l'attualità internazionale, l'ONU, ISIS cresce, non c'è più tempo. Per il Giornale, la Lega si spacca, Renzi si incarta. Avvenire invece, ancora morti in mare, l'Unione Europea forse si muove. Il Fatto Quotidiano, darò il DASPO ai corrotti, ma il PD gliel'ha già bocciato. Questa è l'apertura del Fatto. Ne vedremo altre, ma voglio subito andare a leggere i giornali, a cominciare dalle tante pagine dedicate a Pompei, che ritorna prepotentemente in prima pagina perché ieri la Corte dei Conti della Campania ha eseguito nei confronti di Marcello Fiori, ex commissario straordinario per la gestione degli scavi di Pompei, un sequestro conservativo da 6 milioni di euro. Danni compiuti quando per due anni è stato commissario straordinario di governo. Questa è l'accusa della Corte dei Conti. Per la verità, lui, Fiori, si difende, intervistato da Carmelo Lopapa su Repubblica, pagina 19, dice: sono indagato dal PM del caso Tortora. Essere accusato da lui per me è un orgoglio. Ma come si fa a procedere un sequestro senza che un solo giudice mi abbia condannato? È tutta una bufala, dice Marcello Fiori. Chi ha mai visto questi soldi? Questi soldi, 6 milioni, è la cifra del presunto danno erariale quantificato dalla sola accusa per processo penale per presunto abuso d'ufficio. Ripeto, abuso d'ufficio. Il processo è già iniziato, mi difenderò in tutte le sedi. Ho sentito anche Berlusconi, gli ho rassegnato le dimissioni da coordinatore del club di Forza Italia. Lui mi ha risposto: non scherziamo, e mi ha incoraggiato. Però se uno va a leggere il Corriere della Sera con Gian Antonio Stella, pagina 21, vengono riepilogate le vicende per le quali la Corte dei Conti ieri si è mossa, tra l'altro non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti di alcuni dirigenti del Ministero dei Beni Culturali. Eccolo qua, Gian Antonio Stella, i 103.000 euro per censire 55 cani randagi e il teatro deturpato con il cemento. Sono innocente, lo dimostrerò, dice Fiori. Auguri, scrive Stella, che ricorda ciò che l'Espresso scrisse, la lista indimenticabile delle cose che non vanno. Tra il novembre 2009 e il luglio 2010 il commissario spese 102.963 euro per il progetto Cave Canem, vale a dire il censimento di 55 randagi, quasi 2.000 euro a cane censito, ai quali fu dedicato perfino un sito in cui le povere bestie parlanti si davano alla poesia come odone. E ancora, 12.000 euro per rimuovere 19 pali della luce, 1.776 euro per le divise degli autisti a disposizione del commissario, 81.275 euro per organizzare e accogliere la visita del Presidente del Consiglio, visita poi saltata, spesucce rispetto ai 3.164.282 euro dati alla Wind per il progetto Pompei Viva, che aveva come apertura sul sito lo spot di un ragazzino dinoccolato che entra nella Villa dei Misteri, scatta una fotografia col cellulare a una dama dell'affresco e quella attacca a cantare una cover I Will Survive di Gloria Gaynor. Stupefacente, scrive Gian Antonio Stella. E ancora, poi c'è l'indecente ristrutturazione del teatro, scrive, che fino all'incursione di Fiori era rimasto sostanzialmente intatto, teatro sul quale, come denunciò straziata Alessandra Rachi sul Corriere raccontando di un terribile cantiere invaso da betoniere, bobcarte, ruspe, non fu fatto un restauro conservativo ma un rifacimento edilizio con cordoli di cemento a vista e mattoni di tuffo del tipo usato sugli Appennini per gli ovili e i pollai. Questo si legge sul Corriere. E poi vabbè, vedremo ovviamente come va. A proposito di soldi, l'Expo è con i comuni all'asciutto, ma 1,9 milioni di euro finiscono nelle tasche di Vittorio Sgarbi, o meglio, per finanziare i suoi progetti, l'ambasciatore culturale della regione Lombardia, che dice ce ne vorrebbero di più, comuni all'asciutto, ma Sgarbi vanno 1,9 milioni di euro. Pagina 9 della Stampa, Fabio Poletti racconta l'1,9 milioni di euro stanziati per il progetto Bella Italia del critico Vittorio Sgarbi. Lo stesso Sgarbi dice in effetti la cifra stanziata è oscena, ma modestamente oscena, perché alla fine voglio ben sperare che sia di più, molto di più del 1.900.000 euro stanziato. Ovviamente non è che vanno a lui, vanno ai progetti. Anche se forse certi politici locali ignorano le meraviglie di questa città che abbiamo il dovere di valorizzare e mostrare al mondo. Eccolo qua, i soldi, soldi, soldi che ci sono un pochino ovunque. Oh, adesso devo parlare e state tranquilli, non spoilerò, non spoilerizzo, non lo so come diavolo si dica. Comunque devo parlare di questa vicenda MasterChef. Oggi c'è la finale. Sono rimasti in tre, uno di questi tre vincerà, due sono uomini e una è donna, si chiamano, eccoli qua, Amelia, Stefano e Nicolò, e sono i tre finalisti di MasterChef. Sapete che Striscia Notizia ha svelato un paio di giorni fa il presunto o la presunta vincitrice, presunto vincitore o presunta vincitrice. E, che succede? Basta, beh, ovviamente Sky, la produzione Magnolia, ha minacciato le vie legali. La vicenda è su tutti i giornali, MasterChef Striscia, si accende la guerra delle TV, una pagina intera del giornale, pagina 23 con intervista a uno dei giudici di MasterChef, il chef Bruno Barbieri. Ma anche sul Sole 24 Ore, mezza pagina, MasterChef scontro Sky Striscia, oggi la messa in onda della finale, ascolti record per la quarta edizione della serie, e ovviamente la coda polemica per la scelta di Striscia la Notizia di rivelare in anticipo quello colui o colei che avrebbe vinto MasterChef. Repubblica, Striscia contro Sky a colpi di spoiler, ecco il termine, spoiler. Vabbè, trovate ovunque Il Fatto Quotidiano, MasterChef accende la guerra tra Mediaset e Sky. Tutti giurano che non finirà questa sera con la finale di MasterChef, ma andrà avanti la vicenda, perché evidentemente ci sono questioni legali in ballo. Comunque, se volete, ecco, se non volete scoprire magari chi è che ha rivelato Striscia la Notizia, non leggete i giornali riguardo queste pagine, perché qualcuno lo scrive il nome che ha rivelato Striscia la Notizia. Beh, a proposito di invece cause, questa è l'ultima di Emilio Fede. Ormai è accertato, secondo la procura, ovviamente secondo l'accusa, Emilio Fede ha fatto una tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. Ma è il mondo che va alla rovescia. Emilio Fede, che secondo la stampa avrebbe cercato di estorcere 5 milioni per la verità a Marina Berlusconi, per non parlare di rubi. La vicenda è un po' controversa, Paolo Colonnello lo racconta a pagina 19 della stampa. Il piano era quello di appunto estorcere 5 milioni, poi ridotti a 2 coinvolgendo Marina Berlusconi con la minaccia di parlare se no di rubi. Per la verità sul Messaggero i milioni chiesti da chiesti per i quali ha tentato questa estorsione Emilio Fede a Berlusconi sono diventati 7. Non ha osato aprire il giornale per non scoprire che fossero 10 o 15. Comunque la questione è davvero quella di un mondo che va alla rovescia. Emilio Fede che avrebbe tentato di estorcere del denaro, e che denaro a Silvio Berlusconi. Vabbè, ma siamo al momento dell'articolo Bani sul volante. L'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata e che ci fa tenere le mani ben strette lì sul volante se siete alla guida. Mani sul manubrio, come ci ha raccontato ieri uno da Rotterdam, un nostro caro ascoltatore, e mani sui braccioli se siete in treno, e vabbè, tazzine del caffè bollente da appoggiare. Siete avvisati. Tutti avvisati. 3 anni in cella, ma non è mafioso. Scambiato per un omonimo. Pagina 4 del giorno si racconta la terribile vicenda di Beniamino Zappia, e non Giuseppe Zappia, arrestato, prelevato dal Canada, portato in Italia, uno con 70 anni, zazzera bianca, acciacchi al cuore e un mantra da subito: non sono io, vi sbagliate, quello che cercate non sono io, io mi chiamo Beniamino, la polizia cerca un tale Giuseppe Zappia. Niente. Portato in Italia, 41 bis, 3 anni di carcere, San Vittore, Rebibbia, Benevento, Secondigliano, alla fine, con tante scuse, prosciolto perché il fatto non sussiste, la procura che neanche fa appello e gli avvocati ora che dicono hanno chiaramente sbagliato, cercavano un omonimo di cognome e ora chiediamo il risarcimento allo Stato. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il master chef dell'informazione. Vabbè, oggi ci sta, oggi ci sta. E non rivelare chi ha vinto, caro ascoltatore. Non rivelarlo assolutamente, altrimenti ci becchiamo anche noi le accuse di spoilerare. Mamma mia, da 2 giorni che mi dicono che spoilero. Io vorrei dire 2 parole in faccia a 4 occhi a chi mi dice di spoilerare. Vabbè, allora la politica, anche noi ne parleremo alle 8:15. Avremo ospite l'onorevole Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle e Velardi, Claudio Velardi. Di che cosa? Beh, l'intervista di Beppe Grillo ieri al Corriere della Sera ha aperto a un possibile confronto tra il Movimento e il PD. Per la verità sono tutte un po' schermaglie, per qualcuno è una finta. Il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli a pagina 3 ha il retroscena e racconta di giorni fa, quando ha cominciato a porsi e porre seriamente la questione sulla RAI, Renzi ha chiesto un incontro a Grillo. Questa è la notizia. Renzi ha chiesto un incontro a Grillo. Il premier è determinato a togliere la TV di Stato dalle mani dei partiti. È convinto che questo sia il presupposto fondamentale per una vera riforma dell'azienda. E da allora, prima sotto traccia, poi alla luce del sole, gli esponenti del PD più avvertiti e i grillini più esperti hanno cominciato a lavorarci sopra. Il presidente della vigilanza RAI Fico, Michele Anzaldi, Renziano, che fa parte della commissione RAI, hanno preso i primi contatti. Insomma, fa capire il Corriere che qualche avvicinamento c'è. Certo, i tempi del bisogna dirlo, del vaffanculo facile di Grillo sono un po' passati, oppure non sono passati, è tutta una finta. Beh, il vicepresidente della Camera Di Maio, che è del Movimento 5 Stelle, fa un'intervista al quotidiano Libero, a pagina 3, intervistato da Marco Gorra, dice: va bene, però iniziamo a parlare del reddito di cittadinanza, è la nostra pietra angolare del programma, è il nostro principale obiettivo di legislatura, di più, è la manovra economica del Movimento. Siamo al punto in cui tra pochissimo si inizierà a ballare per davvero. Le audizioni in commissione sono finite, a breve il dibattito entrerà nel vivo con gli emendamenti, il resto dell'iter. Lo scoglio delle coperture è superato, la nostra proposta già ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato e della Commissione Bilancio. E allora quali sarebbero queste coperture? I 16 miliardi da stanziare per il reddito di cittadinanza arriveranno dai tagli ai costi della politica alle auto blu. Questo per 1 miliardo e 100 milioni in tutto. Poi dal dalla riduzione delle spese militari, dagli interventi su slot machine e colossi petroliferi, tutto ovviamente senza creare ricadute sugli utenti. Quindi, dice il Movimento 5 Stelle, le coperture, questi 16 miliardi per il reddito di cittadinanza, ci sono. Il Fatto Quotidiano si concentra proprio su questa proposta, un'intera pagina, la coalizione del reddito, pagina 4, Grillo propone ampie convergenze, SEL e sinistra del PD sono soddisfatti, mentre il responsabile economico del PD, Filippo Taddei, dice il reddito di cittadinanza è una misura che manca al nostro paese e non a caso nel Jobs Act abbiamo introdotto l'assegno di disoccupazione con 200 milioni di stanziamento. Il problema da affrontare seriamente, aggiunge Taddei, sono le coperture e la loro qualità. Non ci convincono generiche patrimoniali, tra l'altro una tantum, e quando si è trattato di ridurre la spesa pubblica, il Movimento 5 Stelle ha sempre votato contro. Questa è la posizione del responsabile economico del PD. C'è anche un'intervista al sociologo Luciano Gallino, sempre sul Fatto Quotidiano, intervistato da Salvatore Cannavò, dice è una buona idea il reddito minimo, serve però soprattutto il lavoro. Comunque il reddito di cittadinanza, chiamato anche basic income o reddito garantito, può essere uno strumento interessante per assicurare reddito a chi non è in grado di lavorare oppure a chi per condizioni familiari non ha la possibilità di lavorare. Penso che in funzione della creazione di posti di lavoro accanto al reddito ci sia una seconda opzione, la creazione diretta di occupazione, che rappresenta un diritto più soddisfacente che non il diritto a un reddito. Questo Luciano Gallino. Comunque sul tema del reddito e cittadinanza pare ci sia una possibile convergenza, staremo a vedere. Mentre non c'è convergenza sulla legge per la corruzione, un altro rinvio di 2 settimane, c'è un retroscena che vi consiglio di Repubblica, pagina 2, la firma di questo retroscena come al solito è di Liana Milella quando si tratta di parlare di giustizia, l'alto là di Palazzo Chigi ad Alfano non può mettersi di traverso e c'è un Grasso, Piero Grasso, che è il padre di questa legge, che critica la maggioranza, sembra come la tela di Penelope, quella che si faceva e si disfaceva e non si finiva mai. Piero Grasso, appena finita la riunione dei capigruppo, viene avvicinato dai giornalisti ma ribadisce così: parlare della corruzione per dire cosa? Negli ultime 2 settimane solo sul falso in bilancio siamo passati da niente soglie a soglie percentuali, poi soglie con cifre, poi di nuovo niente soglie, le pene che si alzano, si abbassano, intercettazioni sì, no, poi no, sì, boh, forse. Non posso rincorrere le voci del giorno, non sarebbe serio da parte mia. Parole amare, si può dire solo questo. Un Grasso che appunto aggiunge, come diceva Totò, ogni limite ha una pazienza. Ormai più che di DDL Grasso dovremmo parlare di DDL Penelope, perché questo tira e molla va avanti da troppo. Grasso, insomma, che ha fatto questo disegno di legge un anno fa, credo, anche di più, e che ora dice non lo riconosco più, non è neanche più mio, tanto viene modificato. L'altro tema politico è quello della Lega. Allora, la Lega è in fase di rottura con Tosi, ormai è certificato e pare che la rottura possa arrivare questa sera. La scissione di Tosi è cominciata, la scelta di 2 consiglieri veneti, così a pagina 12 del Corriere, 2 consiglieri regionali della Lega hanno abbandonato il partito e hanno fondato il gruppo Impegno Veneto. Uno di questi è Luca Baggio, che dice non voglio avere niente a che fare con l'estrema destra di Piazza del Popolo che ha seguito Salvini e la Lega. Via dal gruppo della Lega, si fanno già i conti di chi può lasciare a Roma. Il leader oggi vedrà il ribelle, quindi ci sarebbe l'incontro oggi Salvini-Tosi e stasera Tosi presiderà la Lega Veneta e probabilmente potrebbe rifiutare le imposizioni che sono arrivate da Via Bellerio, cioè o sei nella fondazione o sei nella Lega, questioni proprio di regole interne, e poi ancora devi sostenere Zaia. Pare che sia il giorno proprio decisivo, l'ho detto. Comunque, secondo il giornale, tra l'altro, ecco il dossier segreto, ci sarebbero, scrive così Paolo Bracalini a pagina 6, ben 25 parlamentari pronti a lasciare chi il Movimento 5 Stelle, o forse l'ha già lasciato, ed è nel gruppo misto, chi Forza Italia, chi il nuovo centrodestra per salire sul carroccio, il classico salto sul carroccio. 25 parlamentari per il giornale sono pronti ad entrare nella Lega, lasciando i propri partiti. Altri dicono, ma no, è esagerato, saranno 6 o 7 alla Camera e non so quanti al Senato, però questa notizia è abbastanza clamorosa, 25 parlamentari pronti a passare nella Lega. Chi lo sa, è pronto anche Mauro Meazza, cioè non nel senso a passare nella Lega, perché è una confessionale Mauro Meazza. No, volevo correggerti però su una cosa, se mi consenti, sì. Non è il giorno decisivo, è sabato. Svegliato, me lo potevi dire no. Un paio d'ore fa che... No, perché è il giorno decisivo, è sabato, perché sono stati firmati i decreti del Jobs Act, che, come ci è già capitato di dire, si poteva anche dire riforma del lavoro, però si attende che, appunto, se viene rispettata una certa tempistica nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, sabato entriamo nella nuova fase del contratto a tutele crescenti. Dove l'ho letto? In quale parte? Non, del sole 24 non ore? Su norme e tributi. No, l'ho letto su norme e tributi. Ah, invece sì, su norme e tributi. Un servizio proprio dedicato a questo su norme e tributi. Perché non doveva andare su norme e tributi? Che ne so, non lo so, ormai no, non capisco più se ragioni per contrasto o per trabocchetti. O... Ma stai sereno, come dice il Presidente del Consiglio. Ti voglio anche dire, invece oggi trovi il giornale della famiglia, sì. Sai che ci sono le quattro pagine dedicate, sì. Questa volta all'andamento dei tassi, ma lo trovi all'interno delle pagine di finanza e mercati. Ecco, non temere, puoi anche sfilare, se non sei interessato alle questioni di finanza, magari non vuoi investire nelle società quotate i tuoi 2 eurini che tieni lì un po' così inutilizzati, ecco, se tu non fossi interessato puoi sfilare le quattro pagine e tenere solo il giornale della famiglia, mi raccomando, studia perché ti farà bene. Ti volevo anche segnalare che oggi, tra l'altro, abbiamo Casa 24, come sempre è giovedì, abbiamo Casa 24 e ci sono appunto una serie di considerazioni su posti dove potrebbe essere interessante comprare casa, forse con un po' più di 2 eurini, credo che i colleghi che bastino per lo zerbino 2 euro, forse 2 eurini, sì, e forse ti devi anche far prestare qualcosa se lo zerbino è di un certo pregio, ma in, diciamo così, dulcis in fundo, scusa se parlo inglese, dulcis in fundo non spoilerare. Ti volevo dire che l'Inter, sì, sfratterà. Vabbè, possiamo chiudere. Tiro perché se leggi nelle pagine di Imprese e Territori oggi, tra le molte altre cose di cui si parla anche dell'acquisto, del possibile acquisto dell'Inter da parte dell'Inter dello stadio, lo stadio che porta il mio cognome. Cioè, l'Inter si prende il Meazza, l'Inter si compra il Meazza. Esattamente. L'Inter costo, compra Meazza. 70 milioni, no? Esoso, esoso. Insomma, 70 milioni c'è una certa soddisfazione. È quotato a 70 milioni il Meazza, avete capito? Leggi, caro mio, leggi nelle pagine di Imprese e Territori, ti farà bene. E tutto ciò premesso, traffico! Ho 4 anni, non so leggere i giornali, ma ho colto i soldi. Ma chi è sto genio? Lo voglio conoscere subito! Caro amico mio, ma che bello che sei! A 4 anni non leggi i giornali, fai bene anche a 14, e però ascolta Alessandro Milan, evviva! Oh, ma avete sentito, caro amico genio, piccolo genio, hai sentito che il sindaco a Corinti, sindaco di Messina, quello che va in giro con una maglietta, non è stato fatto entrare all'Assemblea regionale siciliana perché non aveva la giacca e la cravatta? Ma ha detto siamo nel Medioevo, ma ha ragione, ma dai, ma su, ma sono cose che si fanno. Vallo a dire in America, dove Zuckerberg di Facebook va in giro con uno scapestrato, eppure cosa fa? Ma dai, su, ma ancora queste cose. Vabbè, trovate molto di cronaca sui giornali, vi voglio leggere alcune cose. Beh, una è questa, viene su Libero ma anche sul Fatto Quotidiano: facciamo come Stacchio e il paese in braccia al fucile. Ormai Stacchio è diventato per alcuni un simbolo, un emblema, un mito, è il benzinaio che ha sparato sventando la rapina, uccidendo un rapinatore in provincia di Vicenza. E che succede? Che succede che nella frazione di Faè, nel comune di Oderzo in provincia di Treviso, alcuni abitanti, visti 5 furti nelle due vie centrali, si sono passati la voce, hanno iniziato ad armarsi, a dire facciamo noi, visto che le forze dell'ordine non arrivano, facciamo come Stacchio. E ci sono stati casi di gente che ha sparato anche. Vabbè, buone notizie invece per Fabrizio Corona. Oddio, rimane sempre in carcere, ma almeno, scrive Il Giorno, è stato prosciolto dall'accusa di evasione fiscale. Era un'accusa di circa 1 milione di euro che risaliva al 2006, non denunciati nel 2007, ma da questa accusa è stato prosciolto e dunque Fabrizio Corona scantona almeno una delle sue beghe giudiziarie. Il Giorno, a pagina 20. C'è tutto un dibattito da ieri dal Giorno, sempre, quindi rimango su questo quotidiano, sulla questione dell'accattonaggio molesto, così è definito. Pare che ci sia il progetto da parte del Ministro dell'Interno di dare maggiore sicurezza ai sindaci, maggiore potere ai sindaci, anche nei confronti delle prostitute, cioè il DASPO, no? Espellerle, oppure nei confronti degli accattoni molesti, così definiti. C'è un'intervista oggi a Nardella, sindaco di Firenze. Nardella è la stretta sugli accattoni, più poteri ai sindaci in trincea. Ilaria Olivelli, che lo intervista per Il Giorno, dice: siamo pronti, da anni si discute in Parlamento, anche l'allora ministro Bianco aveva previsto un piano per rafforzare i poteri dei sindaci, le proposte non mancano, mi auguro che Alfano trovi la strada giusta per supportare i comuni in questa difficile impresa. Noi abbiamo dato continuità alla linea dell'amministrazione Renzi sul fronte legalità, qualunque politica dell'accoglienza non può prescindere dal rispetto delle regole. Ricordate anche la vicenda dell'assalti ai viaggiatori alla stazione di Santa Maria Novella. E quindi questo tema rimane molto molto in agenda. C'è una storia anche singolare, una storia che vi invito a leggere, una storia che parte da un dramma che per gran parte riguarda un dramma e riguarda il signor Pierdante Piccioni, un primario che racconta a Repubblica i suoi 12 anni di buco, di vuoto della mente. Tutto nasce da un incidente in macchina e poi il risveglio, solo che il risveglio avviene 12 anni dopo. In quel buco, dice, erano tutti invecchiati, mia moglie con i capelli di un colore diverso, le rughe, due ragazzi grandi che mi guardavano con la barba e mi dicevano papà. Io li avevo lasciati a 8 anni, a 11 anni. Ho detto, ero rimasto al 25 ottobre del 2001, il compleanno del mio bambino più piccolo. C'era la lira, c'era Bush, ora c'è Obama, c'era Papa Wojtyła, l'euro, i prezzi nuovi, Facebook, Twitter, non conosco niente, non riesco a ricordare niente di questo, di questi buco di 12 anni. Ho scoperto addirittura di essere un primario, allora ero diventato nel 2007, poi professore a contratto, mi hanno affidato a colleghi neuropsicologi, neuroradiologi, ho aspettato 6 mesi per vedere se c'erano lesioni e danni permanenti alla memoria. Insomma, racconta lo smemorato di Codogno, un incidente del 2013, un medico si risveglia convinto di essere nel 2001, cioè è tornato addirittura indietro nel tempo per un incidente del 2013 che gli ha cancellato gli ultimi 12 anni di memoria. Mi si permetta, ma con grande affetto, perché a un certo punto dice: non ricordo neanche la Juve in B e ho scoperto che c'è stata la finale di Champions League Milan-Juve. Sì, è quella che è finita così. No, lo facciamo per rinverdire la memoria. Ai piedi di Shevchenko. È quella che finì ai rigori, si giocò a Manchester e finì proprio alla fine con un gol di Shevchenko, come racconta Mario Pellegatti, Carlo Pellegatti. Finì così. Quella finale. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Ecco, questa fu la finale di Champions League. Vabbè, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scoperto sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Il nostro caro amico veterinario Oscar Grazioli rivince sul giornale per una tre quarti di pagina dedicata ai VIP che lasciano l'eredità al gatto. Tutte le regole, tutte per il testamento che io farò allora alla mia piccola Zen. Ciao Zen, ci sono le regole per il testamento. Ma chi se ne frega!